Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, buongiorno. Vedi che è tutto nel DNA. Tutto torna. Tu non lo accetti, ma no, è tutto nel DNA. No, non lo accetto. Non, lo accetto. Vedi, non vedi. Posso accettarlo, perché sennò hanno ragione gli eugenetici. No, scusa. No, ma guarda, no, la classifica dei bambini, dei pediatri, ha detto dove si piange di più al mondo. Sì. Sapete dove si piange di più al mondo? I bambini. Regno Unito, Canada, Italia. Siamo Italia. Piagnoni. Sapete dove si piange di meno? Germania, Giappone. Ma non è questione di DNA. Come no? No, è che è chiaro, questi poveri bambini italiani, quando poi gli danno le mamme, loro vedono le mamme invece dei papà e piangono. Questa è la mia tesi da papà, ovviamente, ovviamente del tutto distorta. Quindi invece di tirarti via dei problemi, ti sei accollato un bel problemuccio. Esatto, adesso dopo questo esordio di settimana, soprattutto settimana con il bimbo che inizia l'inserimento all'asilo, quindi sarà già problematico. Ma è stato ritardato perché la mamma diceva no, teniamola a casa, io lo devo spedire abbiamo la quarta vissuto settimana. Questo dramma redazionale. Ma è vero, purtroppo me ne rendo conto che a volte siete tenuti a sobbarcarvi a della solidarietà che non dovete. Redazione, io vi ringrazio. Però in tutte le famiglie italiane, come sai, si discute esattamente di questo. È per questo che certo. I bambini poi piangono di più. Li teniamo tutti troppo tutelati, tutti troppo coperti, sotto la campana di vetro, capisci? Germania no, esposizione immediatamente alle temperature rigide dell'inverno appena nati. No, sto scherzando, ovviamente. Vabbè, insomma, non è del DNA, allora tu dici la questione. No, ecco, mi voglio proprio, sono convinto e persuaso che non sia così. E certo, le tendenze culturali però contano. E dirà, no Giannino, sei appena nato, piangono meno, non c'entrano le tendenze culturali. E insomma, non lo so. Sta di fatto che siamo un popolo di piagnoni e questo l'abbiamo per fortuna il Papa ieri ha esortato a non piangersi addosso. Ah, ecco. Il saggio. Vabbè, da grandi quello però. Da grande, sì. Non credo che si rivolgesse al dibattito interno del PD, però per certi versi mi ho detto, ma il Papa si rivolge al PD? No, ovviamente, no. Allora, 3 aprile, oggi tra tutti i santi, ne scelgo due, perché hanno una storia particolare. Il primo è un santo britannico, per così dire, anzi no, non per così dire, lo è perché era di nascita, famiglia però di agricoltori poveri, cioè non particolarmente ricchi, però ciò malgrado, Riccardo, San Riccardo, che poi è noto come Riccardo di Chichester, perché sarà appunto vescovo di Chichester, si converte e diventa prete da grande, per così dire, ha studiato a Oxford, ha studiato a Parigi, è venuto a studiare 7 anni a Bologna, quindi ha fatto tutto il giro che nel 200 si faceva, nel 1200 le grandi università europee erano esattamente quelle, e Bologna era la prima, a dire la verità. E quando poi diventa vescovo di Chichester, si trova per anni all'interno della grande lotta, perché il re Enrico III all'epoca del Regno Unito gli disconosce il vescovado, e la grande secolare lotta per le nomine tra i re nazionali e invece il clero riconosciuto da Roma, e lui si trova spodestato, ma fa il parroco, non si lamenta e così via. Verrà rinominato, verrà ricontestato, però insomma un saggio, studioso, prete dedito ai poveri, di fronte ai quali la guerra, per così dire, per le investiture sembra una cosa che non l'abbia mai toccato. Quindi infatti è per questo uno dei santi più popolari d'Inghilterra. Non si piange addosso, come non si piange addosso. E pensa che quando Enrico VIII fa la scissione anglicana per le sue note mogli, perché non ha l'ok del Papa, andrà a dare l'ordine di distruggete il reliquiario di San Riccardo da Chichester, proprio perché simbolo dell'indifferenza rispetto al potere regale o a quello papale. È proprio un santo che incorpora secondo me una grande qualità, una distanza rispetto, un po' Bergoglio ricorda, rispetto al potere e alla politica, come devo dire. Quindi infatti per questo è molto ben ricordato. E però un pensierino anche, piccolo piccolo, non voglio essere troppo lungo, su Luigi Scrosoppi, che è un santo friulano di oggi, un santo dell'Ottocento, ha passato anch'egli tutta la vita a fare apostolato tra i poveri, le ragazze abbandonate, le scuole, gli oratori. All'epoca il Friuli era poverissimo, e soprattutto è il santo di chi ha l'AIDS, perché uno dei suoi, tra virgolette, miracoli, perché ci creda o meno, ma insomma certificati, nel 1996, quindi recentemente, è stato la guarigione di AIDS, dall'AIDS, di un ragazzo sudafricano. Luigi Scrosoppi, al di là dell'AIDS, però è un'altra di quelle figure dell'apostolato popolare tra i poveri della Chiesa italiana nell'Ottocento, che secondo me quasi dimenticato, tranne che in Friuli, però vale la pena di essere ricordato. Tra le ricorrenze della giornata, per chi ci crede, nel 33 d.C., oggi, a quella che all'epoca era l'ora terza, cioè le 9 del mattino, iniziava un certo percorso su due tavole di legno e con dei chiodi di un certo signore palestinese che 6 ore dopo avrebbe reso l'anima a Dio, cioè nel senso che oggi dovrebbe essere la giornata della crocifissione, secondo almeno il calendario di San Giovanni e la ricostruzione che si può fare. Nel 1896, passando a cose più leggere, nasceva la Gazzetta dello Sport. Mm-hmm. Che oggi avrai. Come la leggi tu, secondo me? Savidamente. Non lo so, no, come la leggi tu? La salto. La salti. E questo lo sapevo, per quello te l'ho detto. Da qualche anno. E auguri a chi compie gli anni. Tra gli altri, Benedetto della Vedova. E Nigel Farage, che è quello degli UKIP, che sta, è l'unico che ride in Gran Bretagna, perché senza fare grandi sforzi ha ottenuto la Brexit. Allora, noi invece, non so, sorridiamo per quel che riguarda la politica. La politica italiana è in una fase in cui sicuramente si guarda al PD, visto che sono stati resi noti i dati della prima parte delle primarie, con Renzi più o meno al 68%, si votava tra gli iscritti, 68%, Orlando al 25%, Emiliano al 6,36%. La cosa bella, Oscar, è che c'è, sai che in Italia lo sport preferito è quello di contestare i voti, ma qui è bellissimo perché persone del PD che contestano i voti del PD. Emiliano ha detto: il partito è fazioso, sono falsi i dati, siamo almeno all'8%. Cioè c'è contestazione anche sui dati tra gli iscritti. Non mi meraviglio però. No, non ti meravigli, però io ho sempre il gusto di meravigliarmi, di stupirmi. Sì, di fronte, ma perché tu reciti queste cose. Perché la parte che reciti tu è quella dell'ingenuità, che dice: ma possibile, ma no, che all'interno del partito si litighi? No, si litighi, ecco. Sì, ma poi si litiga, dai, proprio anche all'interno dei partiti c'è un'espressione di conflittualità che a volte supererà quella riservata agli avversari. Quando poi, e questo è evidente, è una gara per la leadership che nasce dalla contestazione del bilancio di 3 anni di Renzi segretario premier, quindi c'era una carica di, insomma, di velenino, diciamo, sì, così, sì, che è molto forte. Figurarsi ora cosa ci sarà quando c'era il voto popolare, allora, a questo punto. Però insomma, pare questo certificare, insomma, il ritorno sempre più vicino di Renzi, che di fatto dopo il referendum, dopo una pausa, tornerà probabilmente a capo del Partito Democratico. Ecco, che torni Presidente del Consiglio, vediamo. E questo perché, come vedi, ne parleremo anche poi, secondo un accenno, ma insomma sulla legge elettorale mi pare di capire che siamo ancora caro amico, ecco, quindi. E soprattutto, se resta proporzionale, ricordi che i capi partito nel proporzionale non fanno, nella storia italiana ma anche negli altri sistemi, con eccezioni, l'eccezione della Germania, ma in un sistema iperfrazionato proporzionale i segretari del partito non fanno mai Presidente del Consiglio. Vogliamo però partire da qui anche con i nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Tra l'altro oggi c'è anche un intervento invece di Davide Casaleggio del Movimento 5 Stelle, interessante, sul Corriere della Sera, con questa immagine. Dice: noi del 5 Stelle puntiamo sulla rete, sul coinvolgimento delle persone, sul futuro, sulla tecnologia. Insomma, noi siamo Netflix mentre la vecchia politica è Blockbuster. E chissà se l'ha detto anche pensando che nel frattempo in Senato hanno votato un testo per far secco Netflix, e di solito e sta passando il secondo mese, perché ha detto: entro 60 giorni ordine del giorno cambieremo la norma. Naturalmente non la stanno cambiando, forse non ci ha pensato però. Sarà questo il duello, forse col terzo incomodo Berlusconi, che invece dice: se ci uniamo attorno al mio nome riusciamo a ottenere quel 40%. Ma ne vogliamo discutere con Massimo Giannini della Repubblica, editorialista. Buongiorno Massimo, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Così buongiorno. Come salutiamo il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Direttore, eccoci, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Intanto Giannini, a capire, se torna Renzi a capo del Partito Democratico, qual è l'errore secondo te che non deve commettere rispetto al Renzi 1, diciamo così? Ma l'errore che non dovrebbe commettere è quello che commetterà, cioè di continuare a fare quello che ha sempre fatto. Il Renzi ha una dimensione, Renzi che sfida continuamente avversari irreali ma molto spesso immaginari, Renzi che attacca i gufi e i rosiconi, Renzi che insegue molto spesso il Movimento 5 Stelle sul loro stesso terreno e quindi adotta uno schema che io ho definito in un videoforum a Repubblica TV proprio con lui, del populista mite, no? Che scimmiotta invece i populisti più radicali. Ecco, l'errore che non dovrebbe fare Renzi è questo, ma purtroppo credo e temo che è l'errore che rifarà, perché diciamo in tutte queste settimane, dal 4 dicembre in poi, Renzi ha dimostrato la sua difficoltà barra incapacità di cambiare registro, cioè alla fine lui è sempre lo stesso, adotta sempre questo stesso schema, pur avendo incassato tre pesantissime sconfitte alla fine, perché lui è reduce da due tornate di amministrative, una peggio dell'altra, e poi dalla debacle del referendum costituzionale, quindi avrebbe dovuto imparare una lezione alla luce di tre anni di governo durante i quali la sua narrazione, ancorché pirotecnica, è sempre volta a descrivere un paese che non c'è, ha poi dovuto scontare il fatto che quel paese si è ribellato alla narrazione e gli ha dimostrato che tutto quello che lui andava descrivendo nel suo meraviglioso storytelling dei giorni felici non corrispondeva alla realtà dei fatti. Insomma, a me pare che lui continui su questa falsa riga e quindi questo mi fa dire, numeri del voto dei circoli del PD alla mano, che lui quasi certamente vincerà con un discreto, io non penso con un grandissimo margine, le primarie di popolo tra virgolette, ma quasi sicuramente non rivincerà le elezioni e quindi questo è il grande problema e la grande incognita che abbiamo di fronte di qui a un anno, quando si andrà a votare, perché ora la data o comunque il periodo sono di nuovo ballerini, perché sembra che l'orizzonte si possa allungare addirittura al maggio 2018, quindi insomma è una bella traversata nel deserto che Renzi ha di fronte da nuovo probabilmente leader del Partito Democratico. Questo sì, staremo a vedere. Non so se Mulai è d'accordo sull'analisi e anche sulla questione, insomma, dice Giannini, l'errore di Renzi è quello che farà, insomma, un Renzi che non è cambiato. Se sei d'accordo, direttore, e anche sul fatto che poi in realtà la difficoltà sarà sulla questione delle elezioni, non tanto del conquistare il partito. Beh, insomma, l'analisi su ciò che è stato Renzi e ciò che sarà è quello che, devo dire, in anni in cui gli osanna mediatici si sprecavano, abbiamo detto più o meno in solitudine, non perché ce l'avevamo con Renzi, ma perché bastava guardare i numeri, e i numeri, come si sa, sono i migliori giudici della realtà, per verificare che alla narrazione renziana corrispondeva un quadro totalmente diverso. Il problema adesso è questa traversata nel deserto. Il problema adesso è che l'Italia si trova davanti con appuntamenti contabili e divisioni di paese che non possono essere postergati come un assegno postdatato. Abbiamo davanti un autunno che già ci dice una manovra da 19-20 miliardi per scongiurare le clausole di salvaguardia e quindi l'attivazione dell'aumento dell'IVA. E abbiamo un premier supplente, perché tale è Matteo Renzi, quindi il premier che dice di non fare nulla dietro le quinte e in realtà sappiamo esattamente come continua a mantenere inalterato il potere, non solo all'interno dell'esecutivo, ma il potere di condizionamento di questo esecutivo. Tutto ciò porta a una situazione di stallo che fa male a questo paese, perché è un paese che continua a non avere visione, è un paese che continua a non sapere dove puntare quelle poche fish che gli sono rimaste. È un paese che ancora oggi ciarla di riduzione del carico fiscale, mentre dall'altro lato studia come togliere le agevolazioni fiscali. È il paese che ciarla di nuovo stimolo al lavoro e dall'altro lato aumenta i tributi locali o non mette in condizioni i comuni di far fronte alle spese. È il caso di Torino in questo eclatante. Ancora una volta, la pseudo narrazione renziana si scontra con una realtà che, guardate al terremoto, è stata incapace, incapace in 7 mesi di togliere le macerie dalle strade. Il quadro spettrale del principe Carlo che attraversa Amatrice vi restituisce la realtà di un paese che non è capace, anzi è profondamente incapace di far fronte anche all'emergenza. Ma tra l'altro, Oscar, visto che Mulei ci parla delle detrazioni fiscali, si sta parlando appunto di quello, una delle ipotesi, oggi lo racconta Repubblica, è portarle quelle del 19% al 18%. Sì. Cioè non è aumentare le tasse. L'effetto è esattamente quello. Cioè se io riduco le detrazioni fiscali, voglio dire, aumento le tasse. Poi vogliamo chiamarlo come si vuole, però... L'effetto è esattamente quello. Però del resto capisci che io esprimo per certi versi solidarietà umana a Gentiloni e a Padoan, perché Renzi si comporta nei loro confronti, o almeno sembra, da quello che i giornali scrivono, come se li disconoscesse come avversari, perché capisci che la somma delle cose è che dire il PD non approverà mai un aumento dell'IVA, le clausole fiscali le ha appostate lui nelle finanziarie in arrivo per il 2018 e per il 2019, quindi sai, non è che puoi dire le ho messe io e Padoan adesso le deve violare in Europa fischiettando, perché è una maniera, però questa è la sostanza. In questi giorni, per esempio, dalle indiscrezioni sui giornali si apprende che il governo intende diminuire il cuneo fiscale, soprattutto la parte relativa a carico del lavoratore, ma in parte anche alle imprese, per un ordine di grandezza per i giovani di 10 miliardi. Beh, ottima cosa, a patto però che non siano, e questo naturalmente vedremo i testi se poi saranno confermati, delle misure a tempo, ma soprattutto il problema resta: come si coprono, visto che Renzi dice che ecco a cosa servono, come vedi, no? Gli interventi sulle detrazioni, perché naturalmente mica si può fare solo deficit aggiuntivo, anche perché non riesco a immaginare. L'altra ipotesi infatti, Renzi, è: voglio votare a settembre, perché così nessuno si brucia le dita con la legge di bilancio 2018, i cui presupposti li ha scritti lui nel DEF, cioè quei 19-20 miliardi li ha messi lui di clausole fiscali per fare i bonus e non toccare la spesa. Allora, questo è il quadro. Naturalmente però a evocarlo passi per uno che non ama riconoscere i meriti del governo Renzi, questa è la storia. Però posso fare una domanda? Io dobbiamo andare in pubblicità, però sì, la butto solo lì e poi al ritorno. Esatto. Ciò malgrado, la domanda del direttore di Panorama innanzitutto, ma insomma un po' entrambi, ciò malgrado c'è chi ha incessantemente scritto in questi anni, Foglio per esempio, per dirne una, ma no, ma poi alla fine non ci sarà alternativa, ma a maggior ragione col proporzionale non ci sarà alternativa al Partito Nazionale. Insomma, si può dire quel che si vuole, ma alla fine Renzi e Berlusconi sono destinati a governare insieme. Allora, siccome io mi sono sempre grattata la testa su questa storia, ci sono stati segni di collaborazione, poi Rotti con Mattarella, ma insomma questa storia, a giudizio dei nostri due ospiti, è davvero una trama e un ordito alla cui luce a leggere la politica e magari anche i futuri sviluppi dopo il proporzionale, la prossima legge elettorale? Andiamo in pubblicità e poi chiediamo le nostre due. C'è un nuovo patto del Nazareno, vediamo tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci alle 8:41 minuti. Allora, il patto del Nazareno, non so, ripartiamo magari da Mulei, direttore di Panorama, che sì, per vicinanza a Berlusconi magari sa qualcosa che ci può dire in anteprima. No, scherzo, ovviamente. Mulei, questo patto del Nazareno può essere fatto rinascere? Oscar prima diceva che si gratta la testa, magari molti altri grattano qualcos'altro all'idea di questo governone. Allora, vabbè, ragioniamo con i piedi per terra. In questo momento, almeno a oggi, quindi ad aprile 2017, nessuno degli schieramenti riesce a raggiungere il 40%, quindi la soglia. È chiaro che subito dopo le elezioni un governo va fatto, se non precipitare nella situazione spagnola, anche se devo dire dal punto di vista dei dati economici non è stato poi così malato. Però insomma, diciamo che un governo va fatto. Allora, immaginare il governo Renzi-Berlusconi significa, alla maniera della Merkel, della grossa coalizione, sedersi e fare un compendio, un tomo, produrre un tomo di 300, 400, 500 pagine in cui venga descritto materia per materia il tipo di governo che si vuole attuare. Insomma, io ricordo esperienze passate, io ricordo che l'Ulivo tentò di mettere assieme 13, 14, 15 anni, ma fece un programma enorme, poi pronti via, dopo 2 mesi andò gambe all'aria. Si può fare, può fare. Dopodiché mi piacerebbe capire come si conciliano le idee sull'Europa dell'uno e dell'altro schieramento, come si conciliano le idee sulla giustizia dell'uno e dell'altro schieramento, come si conciliano sullo sviluppo, sui bonus, sulle tasse di questo paese, le politiche dell'uno e dell'altro sul rapporto magari anche politica magistratura, che adesso vorremmo anche affrontare. Però Giannini, su questo insomma, la vedi come improbabile una possibile coalizione per sconfiggere i rivali previsti, cioè il 5 Stelle? No, io non la vedo affatto improbabile, io lo sostengo e lo scrivo da mesi, che a me pare l'unico sbocco possibile dalla palude italiana, a meno che viceversa il Movimento 5 Stelle, cosa peraltro che non mi sento di escludere per come stanno andando le cose, non vinca le elezioni. E teniamo conto del fatto che se anche non arrivasse al 40%, cosa anche questa che mi spingo a dire non è poi così scontato, arrivasse in ogni caso primo, perché questo è abbastanza plausibile, magari sì, col 35, col 36, ma comunque il primo partito sarebbero i 5 Stelle sulla base dei sondaggi attuali. Beh, sarebbe difficile per Mattarella, così come accadde nel 2013 per Bersani, che arrivò primo ma non vinse le elezioni, non passare per i 5 Stelle, no? Non conferirgli l'incarico, insomma, in qualche modo sì, per, se non altro, verificare attraverso un tentativo fatto in Parlamento se non riuscisse a mettere insieme una qualche maggioranza. Ma al di là di questo, siccome io credo e aggiungo di mio, spero che i 5 Stelle non governino l'Italia, perché non mi sembrano affatto preparati per farlo, l'unica altra possibilità è che si mettano insieme le altre due debolezze. In questo momento noi parliamo di due debolezze, perché nell'uno e nell'altro dei due schieramenti, di centrodestra e di centrosinistra, possono considerarsi autosufficienti. L'unica possibilità che hanno, peraltro rinverdendo un terreno comune che si è dimostrato essere, e secondo me lo è tuttora, al di là dei punti che giustamente metteva in evidenza Mulè, un terreno comune che esiste, si è dimostrato già presente sia tra Renzi che tra Berlusconi, tra il PD di Renzi e l'idea di centrodestra che tuttora Berlusconi coltiva e che mi sembra, al di là delle intemperanze di Salvini, quello tuttora più congeniale a una certa idea di paese che secondo me c'è e non è cambiata, sì, nonostante tutto. Vogliamo, ecco, però, su un punto della magistratura magari adesso ci arriviamo, perché il punto, per esempio, oggi ci ha colpito il presidente dell'ANM, il nuovo presidente, che dice: non vorrei arrivare al paradosso che ai magistrati sia vietato entrare in Parlamento mentre è consentito restarci ai condannati in via definitiva. Ovviamente si riferiva alla sezione centrale del CSM, anche la vicenda Emiliano, che dice l'illecito tipizzato disciplinare che riguarda il divieto dei partiti di partecipazione alla vita interna dei partiti, cioè tessere e organi dirigenti, non mi riguarda, perché siccome mi è consentito l'elettorato passivo è chiaro che io vengo eletto in una lista del partito, quindi è un'ipocrisia quella disciplinare. Che sul filo della logica ci può stare, però è ovvio che è un filo della logica per cui a questo punto i magistrati, come succede, si candidano a Taranto dopo aver cambiato la vita politica di Taranto eccetera. Oggi c'è un bellissimo Paolo Mieli che mette in fila tutte le cose, fino a questo PM Ruggero di Trani che crede di essere Robin Hood mondiale e fa fare figure un po', secondo me, ridicole all'Italia. Però il tema c'è anche chi dice Davigo adesso diventa il super candidato politico, sulla stampa di oggi c'è un titolo su questo. Però sentiamo un ascoltatore, Giorgio da Matera, perché poi ci concentriamo su questo tema. Giorgio, buongiorno. Giorgio? Pronto? Sì, dica. Sono Marco. Volevo dare per me, insomma, una brutta notizia ai suoi ospiti, perché a noi Renzi piace così. Noi che lo abbiamo votato, noi riteniamo fondamentalmente che questa debba essere la linea che Renzi deve tenere anche nel prossimo governo, perché è vero che abbiamo perso al referendum, però adesso poi vedremo che cosa succede quando il fronte del no dovrà sbriciolarsi nel diventare il fronte dei piccoli sì, mentre invece chi ha votato no, sì al referendum di fatto è un blocco quasi granitico, e quindi aspettiamo di vedere come vanno le elezioni. Quindi lei, Marco, dice: a noi piace Renzi così proprio. Ma immagino, se uno lo vota è perché gli piace a Renzi così com'è, anche, no? Va bene, grazie. Grazie Marco. Non so, Giannini, la questione magistrati forse è una questione sulla quale Berlusconi e Renzi li vedo un po' ballerini in una possibilità di chi lo sa di però, perché i renziani doc sono molto vicini a quello che ci avevano abituato, non lo so, almeno io ho l'impressione, ad anni e anni di dichiarazioni di gente che è garantista per scelta, a differenza del PD che aveva un'altra scelta. Che dici Massimo? No, no, io sono anche su questo convinto invece che ci sia materia per trattare e se possibile anche per mettersi d'accordo. Voglio ricordare che le cose più acuminate nei confronti delle toghe in questi ultimi anni le ha fatte il governo Renzi, la responsabilità civile dei magistrati, l'intervento sulle ferie dei magistrati, sono state due ferite profonde, almeno così le ha vissute la categoria, ricordiamo la protesta clamorosa che ha fatto la ANM all'inaugurazione dell'anno giudiziario, insomma, no? Quindi voglio dire, l'atteggiamento che ha avuto Renzi finora nei confronti dei magistrati non è stato affatto tenero, ma neanche un po', siamo lontani anni luce dalla linea, chiamiamola così, usando categorie giornalistiche ormai consolidate, giustizialista del vecchio centrosinistra, no? E quindi in questo senso, secondo me, la possibilità di trovare un punto di mediazione tra il centrosinistra immaginato da Renzi e il centrodestra immaginato da Berlusconi c'è, e peraltro devo dire che anche questo disegno di legge Palma, che è tuttora in discussione in Parlamento, che dovrebbe disciplinare questo aspetto, questo sì, io lo trovo anch'io sgradevole, delle cosiddette sliding doors, no? Le porte girevoli tra il magistrato, la politica, entra in politica e poi ritorna a fare magistratura, eccetera. Ecco, mi pare che anche su quello, per esempio, si stia trovando un'intesa, in questo caso devo dire, nello specifico, anche su principi che io condivido, no? Cioè l'attesa di 5 anni per una toga che vuole candidarsi nel distretto nel quale ha fatto appunto il suo ruolo di magistrato, e poi i 3 anni invece di attesa per eventualmente ritornare a fare magistrato dopo aver fatto politica, insomma sono principi questi condivisibili, ma sui quali mi pare che si dimostri che tra Renzi e Berlusconi c'è un legame, essere punti di intesa. Mulè, hai visto? Ormai anche questo abbiamo appianato secondo Giannini, e quindi insomma ci sono dei capitoli su cui il programma è fatto di fatto, esatto. Dice Massimo Giannini. Esatto, esatto. Mulè, che dici? Mulè. Mulè non dice, è caduta la linea. Mulè, su questo. No, per protesta non sei andato. No, la linea è caduta. Però su questo, effettivamente, caro Oscar. Io non lo so, io a me pare. Io ce adesso, la portiamo negli esempi di Tangentopoli. Sarò, naturalmente, sono un testa di piffero, individualista che non rappresenta nessuno, iscritta. Questo è noto, faccio tutte queste 4 premesse. Però detto questo, la variabile della legge elettorale, io continuo a non capirla, perché è chiaro che se vanno a votare solo col proporzionale puro, anzi i renziani sembra che addirittura proprio tanto dicono no, l'unico interventino è proprio di omologare anche le soglie di Camera e Senato, sì. Però inevitabilmente il problema posto da Massimo Giannini si pone. È tornato? Sì, è tornato, c'è con noi. Mulè, non so cosa hai sentito sul tema vicinanza. Entra la corte, sì. Entra la corte, tutti entra la corte. Ci dobbiamo no. Dicevo, sono passati, ci sono voluti anni e anni prima di scalfire, come dire, il Moloch giustizialista, lo è ancora. Dopodiché a me fa sorridere, per non dire che fa sganasciare dalle risate, sostenere ancora oggi, come fa il presidente dell'ANM, che il magistrato è assolutamente inopportuno che si iscriva a un partito, però è assolutamente opportuno che vada in Parlamento. Dopodiché noi possiamo prenderci in giro come vogliamo, tranne che creare il partito degli ottimati, che è il partito, questa specie di nido in cui in Parlamento, immaginate, ci stanno 3-4 magistrati che però non sono iscritti ai partiti, non fanno parte di nessuna parte, però stanno in Parlamento. Ecco, cioè continuare nel 2017 a credere che ci possa essere una distinzione nella mente di un magistrato tra la politica e ciò che significa l'impegno della politica, che è impegno della politica significa prendere parte ed essere necessariamente di parte, perché se prendi una decisione è chiaro che accontenti qualcuno di una parte e scontenti qualcuno di un'altra. Sostenere ancora nel 2017 che è un attentato alle prerogative costituzionali garantite ai cittadini, pretendere che un magistrato faccia il magistrato, cioè faccia ciò per cui ha vinto un concorso, se vuole fare politica, liberissimo di farla, però lasci la toga e ci faccia il tanto piacere di restituirci serenità quando poi andiamo nei palazzi di giustizia e ce lo troviamo davanti. Allora, come vedete, gli elementi in discussione oggi e da qui al prossimo anno sono una situazione in cui, Oscar, nessuno tocca la legge elettorale sapendo che nessuno così vince, però nessuno vuole fare il passo giusto, perché poi purtroppo le leggi... io speravo, tra i tanti miei errori e quello di aver sperato in gioventù alla fine della prima repubblica, buttata via la mia vita dalla politica, di pensare vabbè, almeno non torneranno mai più al proporzionale. Naturalmente sbagliavo anche quello, però significa condannarsi a una politica nella quale quotidianamente il leader di una forza col proporzionale puro passa tutta la sua vita a riperimetrare e ampliare il perimetro della sua identità, cioè è alla ricerca costante di motivi su cui dire non la penserò mai, ma non come gli altri partiti che sono il male, perché questa è la lotta per il proporzionale, ma all'interno del suo stesso partito fa così con i capi corrente diversi. Questo è nella natura del proporzionale puro. Se i partiti sono convinti che questo sia meglio, perché attualmente c'è un problema di fare pulizia, per così dire, su qual è lo sviluppo futuro della destra, perché Berlusconi a Malta ha fatto capire ma no ragazzi, senza di me non si fa niente. Sì, va bene Salvini poi ci penso io, parli con Salvini, lo sappiamo, ti dice l'opposto, quindi c'è un problemino lì di quel tipo là e lo capisco. A sinistra c'è il problemino di chi dice no, Renzi hai giocato, hai sbagliato, non puoi rimanere l'unica opzione, e lui dice no, siete voi che siete tra virgolette sbagliati, quindi mi interessa fare pulizia. Ma al di là delle pulizie a casa propria, poi chi, Mattarella, lui il capo dello Stato, a che santo si vota per mettere in piedi un governo in questo paese? A me, detta così, mi sembra un esercizio totale di irresponsabilità. Quel premio di maggioranza che chi ha fatto la riforma sapeva che sarebbe stato bocciato dalla Corte Costituzionale, che l'aveva già bocciato uguale sulla legge del Senato, purtroppo ci riporta a chi ha scritto le riforme coi piedi, caro elettore che dici ci piace Renzi così. Quella riforma era scritta coi piedi e questi sono i risultati. Nel ringraziare Massimo Giannini e Giorgio Mulè, ci troviamo domattina alla stessa ora. State con noi.